Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Allora, vogliamo sgomberare? Ragazzi, io potrei essere vostro padre, ma se voi non sgomberate, che succede? Devo denunciarvi tutti alla magistratura. Ribellione alla forza pubblica, riunione sediziosa, occupazione abusiva. Ma dico, lo sapete quanto fa tutto questo? Un bel mucchio di annetti. Mio figlio è uno studente come voi, perciò io vi parlo come parlerei a lui. Dico, ma perché volete passare i vostri giorni in galera quando potreste tranquillamente andarvene a sciare o a giocare a tennis o a passeggiare con le ragazze e magari farci pure l'amore, eh? Allora, insomma. Dai, suona! Che anno siamo, Giuseppe Sansone? 1970, contestazione generale di Luigi Zampa, grande raffinato regista italiano. Qui siamo in una aula universitaria affollatissima di studenti contestatari. Già si propone l'antinomia fra la politica uggiosa, ferrosa, piena fatta di scontri di piazza, e la felicità contrapposta della vita un po' paternalistica proposta da questo padre poliziotto meridionale che dice: ma andate a fare l'amore, a divertirvi, io non contesto. Giocare a tennis, che negli anni 70 era lo sport d'eccellenza, sì. Oggi ribobo, qual è l'alternativa? Lo so, giocato a golf. Sia golf. Oggi che costa meno iscriversi ai circoli di golf. No, questa mattina vorremmo, insieme a Giuseppe Sansone, ma l'avrete capito, fare una contrapposizione storica, spiegare quale sia il sedimento culturale che sta dietro ai moti di piazza, anche perché mi meraviglio della meraviglia degli italiani. Vedono ragazze che spaccano vetrine, che fanno casino in piazza. Sembra che improvvisamente è accaduto un evento irripetibile, ma è accaduto prima. Da che punto siamo arrivati? Cosa faranno questi giovani? Ma gli stessi sessantenni che poi il giorno dopo pulivano le strade, probabilmente hanno fatto lo stesso, pensato lo stesso, sono stati contaminati nella loro avventura esistenziale da episodi simili. Sono almeno 45-50 anni che in Italia non si fa altro che, quando occorre manifestare il proprio pensiero da parte delle irrequiete, insoddisfatte fasce giovanili, andare in piazza e fare delle operazioni che assomigliano a quelle che sono viste a Milano. Non le giustifico assolutamente, mai le giustificherei, ma mi piacerebbe pensare, immaginare che un giorno qualcuno si inventasse una maniera diversa per articolare la protesta, anche virulenta, anche violenta se volete, anche urticante, anche antagonista al massimo, ma non mettendosi un bavaglio, dando i calci a candelotti fumogeni, scendendo coi bastoni con le canne inquattate dentro le fascine, pigliandosela con i poliziotti, rompendo le vetrine. Sono cose che ho visto fare io, 60 anni, ma l'ho visto fare anche chi ha la generazione precedente la mia. La commedia italiana, che è il grande ricettacolo della memoria storica degli ultimi decenni, e non ci sarà nulla che sarà assimilabile a quello che ha raccontato il cinema italiano dei nostri anni, perché da un certo punto in poi, diciamo da 5-6 anni a questa parte, il grande archivio dell'umanità ormai è inquinato. È come se fosse una condotta d'acqua corrente che si rompe il tubo e entrano dei reflui che ne inquinano la purezza, da un'infinità di altre microstorie individuali, tutti i nostri selfie, i filmati fatti con YouTube, le cose messe su Facebook. Insomma, i social media hanno creato una sorta di inquinamento dell'archivio digitale dell'umanità. E l'umanità, se vogliamo vederla in una sua lettura mediata, alta, suprema, che ne racconta veramente, oggettivamente, il senso, dobbiamo guardare addietro. So con le mani! Tutto il peso del corpo deve restare soltanto sulle ginocchia. Tu non sei un cavallo che cammina a quattro zampe. Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci, berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Tutta. Niente, allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fredda. Nemmeno l'orrore della Diaz, nemmeno i fatti cruenti e virulenti legati agli eccessi polizieschi in fondo rappresentano qualcosa che non abbia comunque avuto qualche precedente o qualche citazione. Questo è Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, 1970, Elio Petri, un metafisico poliziotto, cioè Gian Maria Volontè, che odora, che traspare dalla pellicola da celluloide l'odore di brillantina rinetti, di rasatura, di barba, di questura. Il Floyd che usavano i vecchi barbieri, esatto. È una sorta di lozione arancione, che da un odorino dolciastro inconfondibile. La vernice lucida delle scarpe, perfette, tutto attillato, e rappresenta questo poliziotto repressivo che porta appunto questo ragazzo in questura, che ha partecipato a delle manifestazioni di piazza. E questa la condensazione, la lettura. A tutti gli effetti lo tortura, oggi si direbbe lo tortura, allora era, diciamo, un interrogatorio un po' pesante nella lettura lì allora, ma in realtà lo tortura. Si attingeva alla cronaca, si guardava, e Petri guardava e deformava insieme a Volontè la cronaca con l'espressionismo, cioè l'espressionismo tedesco di mezzo, ma c'è anche la commedia italiana, perché Volontè qui sfocia quasi nel comico, nel suo essere questo iper siciliano, per l'appunto metafisico, che dà una carnalità concreta alla repressione poliziesca. Questo è un po' il disegno che crea Petri insieme a lui, e che rimane ancora oggi fortissimo, vivido, come allegoria incarnata cinematografica di un certo modo di reprimere. In realtà doveva soltanto crearsi una sorta di fantasmatico apparato allucinatorio. Questo ragazzo non aveva fatto nulla di male, sì. Era il poliziotto che aveva compiuto un delitto, voleva dimostrare che in realtà era intoccabile, quindi dando anche prove del suo delitto nessuno l'avrebbe incriminato. Dimostrare la mia insospettabilità, no? Questo è tutto il teorema kafkiano che sottende al film, però in mezzo si vedono anche gli scontri di piazza e la storia che premeva in quegli anni. Quindi viene raccontata, diciamo, lo scontro di piazza viene raccontato, le iconografie dello scontro di piazza che passano da quelle immagini in bianco e nero con i celerini, con il cappotto lungo fino alle ginocchia, infagottati, con le vecchie Jeep americano, le Fiat Campagnola che correvano in mezzo ai drappelli contestatori, fino a quelle più recenti con i nostri poliziotti vestiti da Robocop. Ma la sostanza è quella, è una sorta di contrapposizione di due antagonismi che in realtà poi hanno molti punti in comune, come disse Pasolini. Man mano che vanno avanti i tempi, i punti comuni però scemeranno. E tu cosa fai qua? Vattene via con gli altri mascalzoni! Ciao, zietto. Ma tu sei Caterina? Sì, la tua nipotina in persona. Solo chiamami Cat, diminutivo di Caterpillar, perché quando arrivo io, sfascio tutto. Peggio di un bulldozer. Di una nipote scostumata come te, io non so cosa farmene. Ma allora perché hai scritto a mia madre? Perché le hai detto di mandarmi qui, che mi avresti messo la testa a posto? Perché non avevo visto quello che sei diventata. Ma se le hai promesso di fare di me una brava figlia di Maria. E va bene, ho detto una bestemmia. Ma allora torno in città. E fai bene. Dai miei amici. Fai bene, quello è il tuo ambiente. Vattene pure in città. Con loro mi diverto. E mi prendono come sono. Don Camillo, tu regali troppo facilmente al lupo le pecorelle smarrite. Ma che la chiamate pecorella quella lì? Ecco, qua siamo in un'altra contrapposizione classica, di cui secondo me poi non è cambiata sostanzialmente la cifra. Il pretone che gli arriva, la nipotina contestatrice, sono i giovani d'oggi, sì. È una delle ultime cose, insomma, l'ha cominciato Ferdandè questo film e poi l'ha interrotto a metà o qualcosa del genere. Il direttore di un regista come Camerini, che viene da proprio un'altra epoca, un film del 72 con Gastone Moschin che fa Don Camillo, sempre tratto dall'ispirazione di Guareschi, e la bellissima Carola André che fa questa contestataria, quindi c'è anche la vena erotica della contestazione, cioè questa figura quasi alla teorema, no, che squaderna. L'antitesi della figlia di Maria, deve essere la giovane zoccola che viene... Irredimibile sì. Davanti, nonostante i tentativi, c'è Gastone Moschin che spara pallettoni al sale, qui siamo nel 72, pallettoni al sale agli ippi, ai capelloni, cioè quindi comunque è il bozzettismo, l'oleografia quasi da Marco Aurelio prodegradato, che comunque aleggia in ogni caso. Pallettone al sale è l'arma che usavano i fattori per difendere le vigne o i frutteti dai giovani scavezzacollo. Sparavano col fucile da caccia, mettendo il sale grosso dentro. Che non è che faceva bene, perché creava ferite anche abbastanza. Però da lontano io non immagino. Però suona da commedia, sempre fumettistica. Non ho capito, diciamo, l'arma anticontestazione non sono gli idranti. Non è come sono... la mamma di Baltimora, se vuoi. Una mamma di Baltimora, sì, che invece dare lo schiaffone spara una botta e lupara al sale. Che crea ustioni irreversibili, però allo stesso tempo sembra qualcosa di carezzevole, quasi una mano santa che ci vuole. Bisogna che ciascuno faccia il suo lavoro e abbia la sua parte di responsabilità e naturalmente anche la sua fetta di guadagno. Non sempre chi si chiama direttore dirige effettivamente qualcosa. Ciascuno deve stare al suo posto. La polizia a reprimere, la magistratura a condannare, la stampa a persuadere la gente a pensarla come vogliamo noi. Tutti in fondo stanno facendo il loro dovere. Sono gli operai che non stanno al gioco. Non lavorano abbastanza, se ne fregano. Vogliono sempre soldi. Non riusciamo a rialzare la produzione. Questo è il vero guaio. Che cosa vuole che conti? Ecco qua esce fuori una parola che oggi sembra scomparsa dal lessico della contrapposizione di piazza: gli operai. Oggi non si parla più di operai che scendono in piazza, non ci sono più disordini in cui sono legati gli operai. È veramente andata in paradiso la classe operaia? Non credo, però comunque no, è un'entità più rarefatta, più spezzettata, meno è quasi più anacronistica anche nella geografia, almeno mentale, di chi descrive questo mondo. Questa invece i giornali sono pieni della foto giorni fa della giovane contestatrice milanese che, mentre spacca la vetrina e sporca di vernice, si scosta casualmente il suo giubbotto nero da Black Block, ciao Rolex oro acciaio. Però sono, appunto, questi sono cortocircuiti che tu alla fine non riesci poi a ricomporre in una reale iconografia. Cioè hai quella che si fa la foto appoggiata, che diventa virale, la foto sorridente appoggiata alla macchina bruciata, sì, come un trofeo. Sì, appunto, hai il ragazzetto strafatto di droghe chimiche che diventa una immediatamente macchietta. Cioè, nel momento in cui è ancora calda la carcassa della macchina, della banca distrutta, c'è già la macchietta, c'è già l'autoparodia. Ecco, questo può ritornare a quello che avevo detto all'inizio, e poi riprendiamo dopo la pausa del traffico. Ti rendi conto che esiste ormai una macchina di riproduzione anche di fiction che è talmente immediata? Il Mattia da Pavia, il ragazzo che prima ha fatto lo spaccone, io spacco tutto, sì, poi il padre l'ha preso a calci in culo e immediatamente un attimo dopo era un bravo ragazzo pentito, è stato immortalato nella sua versione primaria, nella sua ritrattazione, e nel frattempo c'è stata un'infinità di fake, di persone che hanno rifatto il suo verso, già è diventato cronaca, già è diventato rivisitazione della cronaca, già è diventato fiction, parodia. Esatto, è stato, tutto viene fagocitato, è rivomitato a una velocità che in realtà deprime il senso, lo lancia sullo sfondo e lo rende sempre più fumoso, meno chiaro, se vuoi, in questa rapidità di meccanismo. Non ci sono più i tempi di sedimentazione perché ci possa essere una mediazione alta che ci piaccia, certo, poetica, non è più possibile, complessa, se vuoi, no? La poesia è immediata e istantanea. Fermiamoci un attimo perché sennò andiamo troppo alti e deve andare il traffico. Melog, cronache meridiane. Per fare la rivoluzione ci vuole gente pratica. Allora, deve scattare tutto come l'orologio, ora di Mosca, eh? Primo, la federazione ci manda due specialisti, sanno tutto su come si occupa una fabbrica. Secondo, c'è il congresso della gioventù democratica giù al capoluogo, sono venuti da tutto il mondo, ragazzi in gabba. Quelli sì che ci sanno fare, barricate, scontri con la polizia, bottiglie Molotov. Ah, Molotov, ma vengano a fare la barricata a Rocca Pezzone. Me l'hanno promesso. Ah. Comunque andiamo a chiedere conferme telefoniche. Come sarebbe bello se durasse così per sempre. Pensi a un mondo senza lotte, senza contestazioni, dove amico o fratello abbiano ancora un significato. Lei per me è un padre, un fratello. Ma sì, io per voi sono un fratello, sono vostro padre, per voi faccio... Tu fai schifo! Ma come, se siamo fratelli? Non ho mai avuto parenti di questo genere io! Ma come ti permetti? Faccia di merda! Giuseppe Sazzonna, collochiamolo sempre cronologicamente per far capire poi quanto ormai sia... stanco, esaurito, riverberato all'infinito il dibattito sulla protesta di piazza. La cosa interessantissima è questo: è un film del 1970, Don Franco e Don Ciccio dell'anno della contestazione di Girolami, e si riallaccia a quello che dicevamo prima, cioè questa è la parodia, ma che viene fatta in un altro film. Che sembra serio, però. Sì, appunto, cioè che utilizza tutti i cliché dell'epoca. Allora, gli operai comunisti che contestano, poi arrivano gli hippie, portano la droga, la marijuana, e la marijuana seda e crea una riconciliazione di massa, portano dall'India, insomma, la spiritualità, il placare i sensi e la volontà politica. Gli esperti in guerriglia urbana che venivano naturalmente dai paesi oltre cortina, perché erano quelli che insegnavano come riconquistare gli spazi usurpati al popolo. A posteriori sembra quasi ridicolo che sono persone che abbiano creduto a questo, che siano scese in piazza per questo, che siano ammazzate per questo. Sembra impossibile che per questa grande farsa ci siano persone che hanno cambiato, compromesso le proprie esistenze. Non vuole essere un discorso qualunquista il mio, ma sempre visto con il senno della rivisitazione viene da pensare esattamente questo. Facciamoci dare quelli che cacciano chi non ha una casa, quelli che picchiano gli studenti, che disperdono gli operai. Per questa roba agenti ce ne sono. Mercuri, non fare il sovversivo, la cittadinanza non ne può più di scioperi, occupazioni abusive, gli agenti occorrono lì. Ma di quale cittadinanza parla? Dei cosiddetti ben pensanti? Mercuri, tu leggi troppo i giornali di sinistra e ho capito dove vuoi arrivare, ai ricchi. Ma ci sono ricchi e ricchi. Ma di quali ricchi parla lei? Di quelli che dicono paghiamo meglio i terroni? Diamo loro le case più abitabili. Ma ne conosce qualcuno? I ricchi non danno fastidi. Eh no, commissario, li danno e come? Di che cosa ci stiamo occupando? Di ricchi che mandano soldi all'estero. Di fastidi ne danno e come? Insomma, Mercuri, tu vuoi fare un comizio? Te l'ho detto, ci sono ricchi e ricchi e noi lotteremo contro quelli che mandano via i soldi. Mercuri, lo so, tu vuoi una bandiera rossa, mi dispiace tanto, ma la questura ne è sfornita. Poliziotti, ricordatevi, la proprietà è un furto, è giusto? Eh sì, commissario, proprio così. Noi della polizia dobbiamo... Sempre Mattia da Pavia, che è il maître à penser, che più si è espresso sui disordini milanesi, dice... perché rompono le banche, sono state spaccate le vetrine, come è chiaro, la banca è il simbolo del potere, ecco. Poi vedi come invece è cambiata. Qua c'era una dialettica perlomeno basata sempre su luoghi comuni, ma lievemente più articolata. Questi sono due poliziotti, Frank Wolf e Luigi Pistilli, che in Milano Calibro 9 dibattono per l'appunto in questura. Siamo in pieno 1972, quindi siamo negli stessi anni che analizzavamo prima, e quindi diventa quasi un'operetta morale in cui emergono due posizioni contrapposte, si attinge alla cronaca, la si rielabora attraverso... Erano anche gli anni in cui c'erano i sindacati di polizia, andavano in piazza e c'era una contrapposizione, diciamo, l'ideologia era c'era una dialettica molto accesa anche fra chi voleva fortemente, mirava una restaurazione, a un senso di restaurazione di uno Stato forte, cioè erano gli anni dei golpe, gli anni, e chi invece aveva maggiore apertura, ricordo i militari imbavagliati che andavano in giro per strada contestando anche il sistema stesso dell'esercito, della leva militare. Erano periodi abbastanza complessi. Oggi la complessità sembra tutta esaurita in un numero di like dati a un tweet o una foto postata, quella che hai citato te della ragazzina davanti al trofeo della macchina, è una delle foto più viste e più diciamo segnalate e condivise dell'ultima settimana. Una piccola idiota che si fa una foto davanti a una macchina bruciata, nemmeno lei l'ha bruciata, come se fosse, non so, un'esploratrice di due secoli fa davanti al rinoceronte ammazzato. È molto vero quello che dici, questo era un film di genere, tra l'altro, va considerato questo, Fernando Di Leo non era considerato uno dei grandissimi autori, anche se era molto sottile e intelligente, quindi questo era cinema popolare che arrivava nelle sale di seconda, terza, quarta visione, che arrivava a delle masse e che quindi aveva la necessità di alimentare in ogni caso un dibattito e una complessità. E ribadire degli stereotipi comunque. Certo, partendo sempre comunque dagli stereotipi, perché quello funzionava nel genere. Io ti piccherei! Senta, scusi, qualcuno deve aver dimenticato questo giornale di estrema destra nel suo taxi. No, questo giornale è mio. Ma allora cambia tutto. Nell'incidente abbiamo ragione noi, perché noi veniamo da sinistra. Sai, è un fatto di precedenza. Non ti impicciare, capito? Se no ti spezzo la schiena. Senti un po', taxi driver. A questo punto mi hai fatto veramente girare le balle. E allora fuori secondi. È andato giù come un birillo. Porcaccia la vaccaccia. Dai, non infierire ora. Ma che puoi fare? Questo è Renato Pozzetto, che sì. Quattro giorni fa qualcuno ha dato morto per l'ennesima volta, una sorta notizia fake, morto Pozzetto, con tutte le biografie. Questo film me lo ricordo perché ci sono due problemi che tirano fuori. L'uno è quello, diciamo, dell'operaio duro e puro, che non esita a menare le mani perché è fortissimo. Sì. E l'altro è quello dell'omosessualità mal digerita e mal tollerata anche in un ambiente in cui, diciamo, doveva esserci un'apertura di tipo diverso. Sì, è un film del 79, siamo di Steno, tra l'altro, un regista anche lui veniva da altri mondi, insomma, da ben altro cinema nei 40-50, però si ritrova nel 79 a descrivere questa atmosfera. Pozzetto, con la sua faccia da bamboccione assonnato ma la mano pesante, un operaio ex pugile chiamato Gandhi, che però appunto salva dai fascisti, dal linciaggio fascista, l'omosessuale Ranieri, e quindi però questo gli comporta all'interno del partito uno sguardo un po' critico. Guardano con sospetto, certo, sulla sua virilità, perché comunque all'epoca era considerato un valore integerrimo, cioè da non scalfire, quello della assoluta eterosessualità all'interno appunto del poi un omosessuale partito, che non era rappresentato secondo lo stereotipo della checca, una persona all'apparenza, dal comportamento totalmente omologabile, in realtà aveva questa sua cosa e nemmeno lui lo riusciva a tollerare. Gli dice a un certo punto Pozzetto: ma come, tu sei gay? Ma gay non usava quella parola, che a quel tempo non era usata, e comincia a camminare sculettando dicendo: ma come, così si muovono gli omosessuali? È un film molto avanti. Sì, sì, su quello aveva una sua guizzante modalità all'interno della commedia leggera, invece poi proponeva comunque anche lì degli stereotipi invece sull'operaio duro che picchia appunto il tassista di estrema destra e crea una conflittualità. Ecco, noi siamo arrivati alla fine, Giuseppe, però ti rendi conto quanto sia necessario un piglio diverso da quello dell'immediatezza del filmato preso con lo smartphone, per dare delle sfumature che oggi troviamo geniali, anticipatorie, troviamo dei pensieri che oggi hanno la loro espressione ma non avevano certo negli anni lì. Ti rendi conto quale sarà la fatica di chi verrà dopo di noi? Mi pongo sempre questo problema nell'interpretare i nostri archivi della nostra storia. Non avrà più dei film come questi per parlarne. Avrà un'infinità di video fatti su YouTube che alla fine però non anticiperanno nulla. Saranno il congelamento dell'istante e chi lo interpreterà? E infatti la sforza è quello di prendersi il proprio tempo negli artisti, nei pensatori, negli intellettuali o presunti tali. Prendere il tema, andare controtempo rispetto a questo tempo di fagocitazione immediata, di risputamento di notizie che non vengono elaborate e che quindi non assumono profondità e si condensano in un senso reale. Ci fanno segno che abbiamo finito, dai, penso abbiamo anche scocciato, ora che la gente butta giù la pasta e mangia. A lunedì!